Capitolo 5. Le 5 erano appena suonate, il mattino del 19 gennaio, quando Bessie, con la candela in mano, entrò nel mio stanzino trovandomi già alzata e quasi vestita. Ero scesa dal letto una mezz'ora prima e, dopo essermi lavato il viso, mi ero infilate le vesti alla pallida luce della luna, i cui raggi filtravano nella stanza dall'angusta finestra presso il mio lettuccio. Dovevo partire da Gateshead quel giorno con la diligenza che passava alle 6, davanti ai cancelli della villa. Bessie era la sola persona alzata. Aveva acceso il fuoco nella stanza dei giochi, dove ora stava preparando la mia colazione. Sono pochi i bambini che possono mangiare quando li agita la prospettiva di un viaggio imminente, e neppure io lo potei. Dopo aver inutilmente insistito per farmi ingoiare poche cucchiaiate di latte con pane, Bessie fece un cartoccio di qualche biscotto e me lo mise nella borsa. Poi mi aiutò a indossare la pelliccia e il berretto, e avvolgendosi in uno scialle uscì con me dalla camera dei giochi. Mentre passavamo davanti alla camera della signora Reed, Bessie mi chiese se non volevo entrare a salutare la signora. No, Bessie, è venuta da me ieri sera mentre tu eri in cucina per la cena e mi ha avvertita che era inutile disturbarsi lei o le mie cugine questa mattina. Mi ha detto anche di ricordare che era sempre stata la mia migliore amica e che dovevo quindi parlar bene di lei ed esserle grata. E che cosa le ha risposto? Nulla, ho nascosto il viso sotto le coperte e mi sono voltata verso il muro. Ha fatto male, signorina Jane. No, Bessie, era giusto. La tua padrona non mi è mai stata amica, anzi, mi ha sempre trattata come una nemica. Signorina Jane, non dica questo. Addio, Gateshead, esclamai mentre attraversavamo l'anticamera e uscivamo dalla grande porta sul fronte della casa. La luna era scomparsa e regnava un buio fitto. Bessie recava una lanterna che rischiarò gli scalini umidi della gradinata e la ghiaia del viale inondata da un improvviso disgelo. Spirava un vento tagliente ed io battevo i denti per il freddo mentre m'affrettavo lungo il viale. La portineria era illuminata e quando vi arrivammo la moglie del portiere stava accendendo il fuoco. Accanto alla porta scorsi già legato il mio baule che era stato portato lì la sera avanti. Mancavano pochi minuti alle 6 e poco dopo lo scoccare dell'ora un rumore di ruote in lontananza annunziò l'arrivo della diligenza. Mi feci sulla soglia e vidi i suoi lumi avvicinarsi rapidamente nelle tenebre. «Parte sola?» domandò la moglie del portiere. «Sì. Va molto lontano. A 50 miglia di qui. È un viaggio lungo. Mi meraviglia che la signora Reed si fidi a mandarla da sola così lontano.» La diligenza stava arrivando. Eccola là al cancello con i suoi 4 cavalli e il suo carico di viaggiatori. Il postiglione ed il cocchiere ci gridarono di far presto. Il mio baule fu fissato sul tetto ed io venni strappata dalle braccia di Bessie, alla quale m'ero stretta ricoprendola di baci. «State attenti alla bambina e abbiatene cura!» gridò Bessie al postiglione quando questi mi alzò e mi mise dentro la carrozza. «Sì!» fu la risposta. Lo sportello venne chiuso, una voce disse «Andiamo!» e la diligenza ripartì. Così fui separata da Bessie e da Gateshead. Così fui condotta via verso regioni ignote e che allora credevo lontane e misteriose. Del viaggio ricordo ben poco, so soltanto che quel giorno mi parve interminabile e che credevo d'aver già percorso centinaia di miglia. Attraversammo diverse città e in una di esse molto grande la diligenza si fermò, i cavalli furono cambiati e i passeggeri scesero per pranzare. Fui condotta anch'io in una locanda e il postiglione volle che mangiassi qualche cosa, ma poiché non avevo appetito mi lasciò in una sala immensa con un camino in ogni angolo, un lampadario pendente dal soffitto e una piccola galleria tappezzata di rosso e ingombra di strumenti musicali. Passeggiai per un pezzo in quella sala, oppressa da strani pensieri e agitata dalla paura che qualcuno entrasse e mi portasse via, perché credevo ai rapitori, le cui gesta ricorrevano spesso nelle storie che Bessie ci narrava la sera accanto al fuoco. Finalmente il postiglione ritornò e mi caricò di nuovo sulla diligenza. Egli stesso risalì al suo posto, diede fiato al corno e la carrozza si rimise in moto, rotolando con fragore sull'acciottolato della città di. Il pomeriggio avanzò, umido e piuttosto nebbioso, e all'imbrunire cominciai a rendermi conto che eravamo molto lontano da Gateshead. Ora a città non ne incontravamo più, e il paesaggio era cambiato. Alte colline buie si profilavano all'orizzonte e l'oscurità infittiva mentre ci inoltravamo in una valle triste e boscosa. La notte aveva ingoiato da un pezzo il paesaggio quando un forte vento si levò tra gli alberi. Cullata dallo stormire delle fronde, finalmente mi addormentai. Dormivo da poco quando uno scossone della diligenza mi svegliò. Ci eravamo fermati, lo sportello era aperto e alla luce delle lanterne vidi dall'esterno affacciarsi una donna che, a giudicare dalle vesti e dai modi, doveva essere una serva. «C'è qui una bambina di nome Jane Eyre?» domandò. «Sì», risposi io. Fui fatta scendere e il mio baule venne scaricato e la diligenza ripartì subito. Il rumore e le scosse della carrozza mi avevano stordita e mi sentivo tutta indolenzita dopo tante ore di immobilità forzata, ma cercai di vincere quel torpore del corpo e della mente e mi guardai attorno. Vento, pioggia e tenebre riempivano lo spazio, tuttavia distinsi vagamente un muro nel quale era aperta una porta. Varcai quella porta insieme alla mia nuova guida, che poi la chiuse e la sprangò col catenaccio. Ora una casa era visibile, o forse una fila di case, poiché la facciata appariva molto estesa. Numerose finestre la foravano e alcune di esse erano illuminate. Percorremmo sotto la pioggia un largo viottolo dal fondo acciottolato, diguazzando tra le pozzanghere, e ci trovammo di fronte a un'altra porta. Di là entrammo in un corridoio che conduceva in una stanza dal caminetto acceso, e là la donna mi lasciò sola. Mi avvicinai al caminetto, allungando le mani intirizzite sopra la fiamma, e mi guardai attorno. Non c'era lume, ma il chiarore oscillante delle fiamme mi mostrava a intervalli un muro coperto di carta, un tappeto delle tende e qualche mobile di mogano lucente. Era un salotto, non così elegante né spazioso come quello di Gateshead, ma abbastanza confortevole. Mi studiavo di distinguere il soggetto di un quadro appeso alla parete quando la porta si aperse ed entrò una persona che reggeva un candeliere. Dietro a lei ne comparve subito un'altra. La prima era una donna alta, con occhi e capelli neri e la fronte pallida e spaziosa. Benché fosse in parte avvolta in uno scialle, mi parve che il suo portamento fosse nobile e il contegno grave. «La bambina è molto piccola per essere stata mandata qui da sola», disse, posando il candeliere sulla tavola. Mi esaminò attentamente per un minuto o due, poi aggiunse: «Bisogna metterla a letto subito. Ha l'aria stanca». «Sei stanca?» mi domandò, posandomi la mano sulla spalla. «Un po', signora». «E avrai anche fame. Le dia qualche cosa da mangiare prima di mandarla a letto, signorina Miller. È la prima volta che lasci i genitori per venire in collegio, piccina?» Le spiegai che non avevo genitori ed ella volle sapere da quanto tempo fossero morti, poi quanti anni avessi, come mi chiamassi e se sapessi leggere, scrivere e ricamare un poco. Quindi mi fece una lieve carezza sulla guancia e, dicendomi «spero che sarai buona», mi affidò alla signorina Miller. La signora che avevo lasciato poteva avere poco meno di 30 anni, quella che mi accompagnava sembrava più giovane. La prima mi aveva colpita per l'aspetto, la voce e lo sguardo. La signorina Miller invece era più comune, aveva un colorito acceso, sebbene il suo viso sembrasse affaticato, e i modi e il passo frettolosi di chi ha sempre molteplici cure da sbrigare. Sembrava, insomma, come appresi più tardi, quello che effettivamente era, una sorvegliante al servizio delle maestre. Guidata da lei, attraversai di stanza in stanza, di corridoio in corridoio, tutta una vasta casa dalla struttura irregolare. Infine, sbucando dal profondo e quasi pauroso silenzio che regnava nell'ala dell'edificio da noi attraversata, giungemmo in un andito dove ci venne incontro un brusio di voci. Ed eccoci subito in un'aula vasta e lunga con 4 grandi tavole di abete, due ad ogni estremità, su ognuno dei quali ardeva un paio di candele, e al centro, sedute in file di banchi, un gruppo di ragazze dai 9 ai 20 anni di età. A tutta prima, in quella luce fioca, sembravano innumerevoli, sebbene in realtà non fossero più di un'ottantina. Vestivano tutte un'uniforme scura di stoffa rigida e di taglio antiquato e lunghi grembiuli di tela. Era l'ora dello studio e il brusio che avevo udito non era altro che quel sommesso coro di voci intenti a ripassare la lezione per l'indomani. La signorina Miller mi fece cenno di prendere posto in un banco accanto alla porta, poi, dirigendosi verso l'altra estremità dell'aula, disse a voce alta: «Le capoclasse raccolgano i libri e li ripongano». 4 ragazze grandi si alzarono e, passando di banco in banco, raccolsero i libri e li riposero. La signorina Miller diede un nuovo ordine: «Ed ora andate a prendere la cena». Le 4 ragazze uscirono e rientrarono subito dopo, recando ognuna un grande vassoio sul quale erano disposte varie porzioni di non so che cibo e al centro una brocca d'acqua ed un bicchiere. Le porzioni furono distribuite alle alunne e chi aveva sete si versava un po' d'acqua nel bicchiere che era comune. Quando venne il mio turno, bevetti perché avevo sete, ma il cibo non lo toccai. La stanchezza e l'eccitazione del viaggio mi avevano tolto l'appetito, ma notai che sul piatto vi era una minuscola fetta di torta di avena. Finito il pasto, la signorina Miller lesse le preghiere e le alunne lasciarono l'aula a due, salendo ai dormitori. Affranta dalla fatica, come ormai ero, notai ben poco del dormitorio nel quale mi avevano condotta, eccetto che come l'aula di studio era una stanza molto lunga. Quella notte avrei dormito con la signorina Miller, la quale mi aiutò a svestirmi. Non appena fui sotto le coperte, diedi un'occhiata alle due lunghe file di letti, ognuno dei quali fu rapidamente occupato da due ragazze. 10 minuti dopo l'unico lume fu spento, e in quel silenzio, in quella completa oscurità, mi addormentai profondamente. La notte passò in fretta, ero troppo stanca persino per sognare, e la sola volta che mi svegliai udii il vento scuotere i vetri in raffiche furiose. La pioggia cadere a torrenti e mi accorsi che la signorina Miller dormiva accanto a me. Quando riapersi gli occhi suonava una campana e le ragazze stavano alzandosi e vestendosi. Il giorno non era ancora spuntato e un paio di lumi erano accesi nel dormitorio. Mi alzai anch'io di mala voglia. Mi vestii in fretta, tremando per il freddo, e mi lavai non appena ci fu un catino libero. Ma ci volle un po' di tempo perché ogni catino, sul suo trespolo al centro della stanza, serviva a 6 ragazze. La campana suonò di nuovo. Tutte si misero in fila 2 per 2, e in quell'ordine scesero le scale ed entrarono nell'aula gelida e fiocamente illuminata. La signorina Miller lesse le preghiere e poi disse ad alta voce: «Formate le classi!» Ne nacque per qualche minuto un certo tramestio, sovrastato dai continui richiami della signorina Miller. Silenzio! Ordine! Quando la calma fu ristabilita, mi accorsi che le allieve si erano divise in 4 gruppi. Ogni gruppo stava in piedi disposto a semicerchio, davanti a uno dei tavoli, presso il quale stava una sedia vuota. Tutti avevano in mano un libro e un grosso volume che mi parve una Bibbia, era posato su ogni tavolo, davanti alle sedie vuote. Per qualche istante non si udì che un sommesso bisbiglio, subito represso all'approssimarsi della signorina Miller che passava dall'uno all'altro gruppo di allieve. Udimmo in distanza il suono di una campanella e subito dopo 3 signore entrarono nell'aula andando a sedersi, ognuna al proprio posto, dietro i tavoli. La signorina Miller occupò la quarta sedia vuota, dietro il tavolo vicino alla porta, attorno al quale erano riunite le più piccole. Io fui assegnata a quel gruppo e fatta sedere nell'ultima fila. Il lavoro cominciò, recitammo la preghiera del giorno e alcuni brani delle scritture, ai quali seguì una lunga lettura della Bibbia, che si protrasse per circa un'ora. Quando gli esercizi spirituali furono terminati, era ormai giorno chiaro. L'instancabile campana suonò per la quarta volta e le alunne si rimisero in fila, dirigendosi verso il refettorio. La prospettiva di mangiare un boccone mi rianimò perché mi ero nutrita così poco il giorno innanzi che mi sentivo quasi morire di nebbia. Il refettorio era uno squallido stanzone semibuio, con un basso soffitto a volta. Su 2 lunghe tavole fumavano alcune zuppiere colme di una brodaglia che esalava in me un odore tutt'altro che appetitoso. Vi fu un movimento generale di malcontento non appena i fumi di quella vivanda giunsero alle narici delle educande. Dal gruppo delle più grandi, che precedevano le altre, salì un indignato mormorio. «Ma è disgustoso, la minestra è bruciata anche oggi!» «Silenzio!» intimò una voce che non era quella della signorina Miller. Chi aveva parlato era la maestra delle grandi, una donna dai capelli neri, piccolina e ben vestita, ma dalla fisionomia antipatica, che prese posto a capo della prima tavolata, mentre una signora grassoccia e d'aspetto più gentile presiedeva la seconda. Mi guardai attorno in cerca di colei che mi aveva ricevuta la sera prima, ma inutilmente. All'estremità del tavolo al quale ero seduta anch'io stava la signorina Miller, e lo stesso posto, alla quarta e ultima tavola, era occupato da una strana donna anziana dall'aspetto straniero, che, come appresi in seguito, era l'insegnante di francese. Si recitò una preghiera di ringraziamento, si cantò un inno, e infine, dopo che una domestica ebbe portato il tè per le maestre, il pasto cominciò. Debolissima per il prolungato digiuno, mi gettai con ingordigia sulla mia porzione di minestra e ne ingoiai 2 cucchiaiate senza badare al gusto che poteva avere. Ma quando la fame si fu un poco calmata, mi accorsi di avere davanti una brodaglia nauseabonda, una zuppa di farina bruciata, non è meno disgustosa di un piatto di patate guaste e può togliere l'appetito anche alla creatura più affamata. Vedevo ogni ragazza portarsi lentamente il cucchiaio alla bocca e tentare di trangugiarne il contenuto, e poi quasi tutte rinunziarvi. L'ora della colazione era trascorsa, ma nessuna aveva mangiato. Dopo aver reso grazie di ciò che non si aveva avuto e cantato un altro inno, dal refettorio si passò nell'aula di studio. Io fui una delle ultime a uscire e mentre passavo tra un tavolo e l'altro, vidi una maestra assaggiare una cucchiaiata della nostra minestra e poi volgersi a guardare le altre che scossero il capo con espressione indignata, mentre una di esse, quella grassa, diceva a bassa voce che cucina abominevole è davvero una vergogna. Prima che la lezione cominciasse, trascorse un quarto d'ora, durante il quale regnò nell'aula un animato vocio. In quel breve intervallo era permesso parlare ad alta voce e le alunne ne approfittarono per dir male della colazione. Povere creature, era quello il loro unico sfogo. Di tutte le maestre era presente soltanto la signorina Miller, circondata dal gruppo delle grandi che le parlavano con voci risentite, serie in viso. Udii pronunciare il nome del signor Brocklehurst, al che la signorina Miller scosse il capo, come se disapprovasse, ma non fece nulla per calmare la generale indignazione, poiché senza dubbio la condivideva. L'orologio della scuola batté le 9 e la signorina Miller, scostando da sé le ragazze dal fondo della stanza, ci ordinò: Silenzio, ai vostri posti! La disciplina prevalse. In capo a 5 minuti, l'ordine fu ristabilito e un silenzio quasi assoluto subentrò al clamore di tante voci. Le maestre erano entrate puntualmente ed ora occupavano i loro posti. Tuttavia, la scolaresca sembrava in attesa di qualche cosa. Allineate nei banchi, le 80 alunne sedevano immobili e diritte, formando una ben curiosa assemblea, con quei capelli pettinati dietro le orecchie, tesi e lisciati in modo che neppure un ricciolo sfuggisse, le bige divise, chiuse sotto il mento da uno stretto collettino, la sacca per il lavoro, simile nella forma alle borse del costume scozzese, legata sul davanti a mo' di tasca, le calze di lana e le grosse scarpe da contadine con la fibbia di ottone. Una ventina di quelle collegiali erano ormai donne, ma così vestite anche le più carine apparivano goffe e brutte. Io le osservavo, allungando di quando in quando un'occhiata anche alle maestre, nessuna delle quali mi riusciva veramente simpatica, perché la grassa era piuttosto volgare, la bruna pareva irascibile, la straniera rude e grottesca, e la signorina Miller, poveretta, così rossa in viso, sembrava logorata da un accesso di fatiche, sempre stanca. Mentre il mio sguardo passava così da un viso all'altro, tutta la scoloresca si alzò di scatto, come mossa da un unico congegno. Che succedeva? Nessuno aveva parlato ed io ero ancora in preda alla mia perplessità quando tutte si rimisero a sedere. Ma poiché ora le alunne avevano gli occhi fissi verso la porta, volsi anch'io lo sguardo in quella direzione e vidi allora la signora che mi aveva ricevuto la sera prima. Era ferma in fondo all'aula, accanto al caminetto. Ve n'era uno ad ogni lato, e con espressione seria e grave osservava in silenzio le due file di educande. La signorina Miller le si accostò, le rivolse una domanda, e dopo aver ricevuto la risposta, tornò al suo posto e ordinò ad alta voce: Capoclasse della prima, vada a prendere i globi. Mentre l'ordine veniva eseguito, la signora, che era stata interpellata, avanzò lentamente tra i banchi. Suppongo di avere in me una spiccata tendenza alla venerazione, perché ricordo ancora con quale ammirato rispetto seguì i suoi passi. Vista la luce del giorno, ella appariva alta, bella e ben fatta, con due occhi bruni, luminosi e buoni, e scure sopracciglia finemente disegnate che facevano risaldare il candore della fronte spaziosa. I capelli pressoché neri erano raccolti sulle tempie in due morbidi rotoli, secondo la moda di quell'epoca, in cui non usavano né i lunghi bucoli spioventi sulle guance, né l'acconciatura a bande lisce e piatte. Il suo vestito era di panno, color porpora guarnito di ricami in velluto nero, secondo la moda del tempo, e alla cintura le brillava un orologio d'oro, gioiello che allora era assai meno comune di oggi. Per completare il ritratto occorre aggiungere che aveva fattezze delicate, una carnagione pallida ma chiara, un portamento nobile e modi raffinati, e si avrà così un'idea precisa, almeno per quanto lo consentono le parole, dell'aspetto della signorina Temple. O meglio di Mary Temple, come vidi scritto in un libro di preghiere che un giorno mi affidò perché lo portassi in chiesa. La direttrice di Lowood, poiché tale era la sua condizione, si sedette al tavolo sul quale erano stati posati due globi e, riunendo attorno a sé la prima classe, cominciò una lezione di geografia. Le classi inferiori furono chiamate presso le altre maestre e le ripetizioni di grammatica, di storia e di altre materie continuarono per un'ora. Poi seguì la lezione di aritmetica, mentre la signorina Temple impartiva lezioni di musica a un gruppetto delle più grandi. L'orologio annunziava quando era finita l'ora assegnata a ogni lezione. Quando suonò mezzogiorno, la direttrice si alzò. «Ho qualche cosa da dire alle educande», annunciò. Nell'aula risuonava già il brusio che segue la fine delle lezioni, ma quella voce lo zittì. Ella riprese: «Questa mattina vi è stata distribuita una colazione che non avete potuto mangiare. Dovete avere fame, perciò ho dato ordine di prepararvi una merenda di pane e formaggio». Le maestre la guardarono sorprese. «Me ne assumo io la responsabilità», aggiunse ella a mo' di spiegazione, volgendosi verso di loro, e subito dopo lasciò l'aula. Il pane e il formaggio furono distribuiti con grande gioia di tutta la scolaresca. Poi ci fu dato ordine di uscire in giardino. Ognuna si mise in testa un rustico cappello di paglia dai nastri di cotone e si avvolse in un mantello di panno bigio. Fui vestita anch'io come le altre e, seguendo le compagne, uscii all'aperto. Il giardino era un appezzamento di terreno piuttosto esteso e circondato da un muro sufficientemente alto perché nessuno sguardo potesse posarvisi dall'esterno. Lungo uno dei quattro lati correva un porticato e il centro, circondato da larghi viali, era suddiviso in tante piccole aiole. Queste aiole venivano assegnate alle educande perché le coltivassero e così ognuna di esse aveva il suo minuscolo giardino. Nella bella stagione, quando la terra è in piena fioritura, non dubitavo che quelle aiole fossero veramente belle a vedersi, ma ora, alla fine di gennaio, tutto appariva scialbo e scolorito, squallido e gelato. Rabbrividii guardandomi attorno. La giornata non era propizia alla ricreazione all'aria aperta. Non che piovesse, ma una nebbia umida e giallastra appesantiva l'aria. Il terreno era ancora imbevuto dalla pioggia del giorno prima. Le più robuste tra le educande correvano per i viali impegnate in giochi movimentati, ma molte altre, pallide e magre, avevano cercato rifugio sotto il portico, tremanti di freddo e con i gracili petti squassati di frequente da una tosse cavernosa. Io non avevo ancora rivolto la parola a nessuno, e nessuno d'altra parte sembrava accorgersi di me. Ero sola, ma l'isolamento non mi pesava molto perché da lungo tempo vi ero abituata. Mi appoggiai a un pilastro e, avvolgendomi meglio nel mantello, cercai di dimenticare il freddo pungente e la fame che mi dilaniava, osservando l'ambiente nuovo nel quale mi trovavo e riflettendo. I miei pensieri erano troppo indefiniti e frammentari perché valga la pena di riferirli. Non sapevo ancora bene dove fossi. Gateshead e la mia vita passata sembravano svanire alle mie spalle in una incommensurabile distanza. Il presente era vago e strano e sul futuro non potevo fare alcuna congettura. Volsi attorno lo sguardo su quel giardino quasi conventuale e poi osservai la casa. Un vasto edificio per metà vecchio e grigio e per l'altra metà fatto nuovo. Nella parte nuova, dove si trovavano l'aula di studio e i dormitori, si aprivano finestre ogivali munite di inferriate che davano alla costruzione l'aspetto di una chiesa. Una targa di pietra sopra l'ingresso recava questa iscrizione: «Istituto di Lowood. Questa parte fu ricostruita nell'anno Domini da Naomi Brocklehurst di Brocklehurst Hall, in questa contea. Possa la tua luce risplendere dinanzi agli uomini affinché essi vedano le tue opere e glorifichino tuo Padre che è nei cieli». San Matteo verso 16. Lessi e rilessi queste parole, intuendo che occorreva interpretarle, ma senza riuscire ad afferrarne il senso. Stavo ancora riflettendo sul significato della parola istituto e tentando di scoprire il nesso che poteva esservi tra la prima parte dell'iscrizione e il versetto della Bibbia, quando un colpo di tosse dietro a me mi fece volgere la testa. Su una panchina di pietra, a poca distanza, era seduta una ragazza che con un libro tra le mani sembrava tutta assorta nella lettura. Riuscii dal mio posto a leggere il titolo del libro. Rasselà, un nome che mi parve strano e perciò attraente. Voltando una pagina, la ragazza alzò gli occhi ed io ne approfittai per rivolgerle la parola. «È interessante codesto libro?» le domandai, ripromettendomi già di chiederglielo in prestito per qualche giorno. «Mi piace», rispose la ragazza dopo avermi esaminata per un istante. «Di che cosa tratta?» continuai. Non so dove trovassi l'ardire di intavolar discorso con una sconosciuta, contrariamente alla mia indole, ma forse l'averla vista immersa nella lettura aveva toccato in me una corda sensibile. poiché anche a me piaceva leggere, anche se non avevo in simpatia i libri seri e concettosi, che mi annoiavano perché non li capivo, e amavo soltanto i racconti di fate e di avventure. Vuoi vederlo? Mi disse la ragazza, porgendomi il libro. Una rapida scorsa mi convinse che il contenuto era meno interessante del titolo. In quelle pagine stampate, fitte fitte, non si parlava né di fate né di gnomi. Non avveniva nulla di strano e di fantastico, e quindi Rasselas sembrò scipito ai miei gusti infantili. Restituì il libro alla ragazza, ella lo prese senza dirmi nulla e stava già per immergersi di nuovo nella lettura quando io la interruppi ancora. Puoi dirmi che cosa significa l'iscrizione incisa sopra quella porta? Che cos'è l'istituto di Lowood? La casa nella quale sei venuta ad abitare? Perché si chiama istituto? Non è una scuola come le altre? No, è in parte un istituto di beneficenza. Tu, io e tutte le altre viviamo della carità pubblica. Devi essere orfana anche tu, non hai perduto tuo padre o tua madre. Sono morti tutti e due e io ero così piccola che non li ricordo neppure. Ebbene, tutte le ragazze che vedi qui sono orfane di uno o di entrambi i genitori e per questo la nostra scuola si chiama istituto per l'educazione delle orfane. Ma non paghiamo nulla? Ci mantengono gratuitamente? Paghiamo, o i nostri parenti pagano per noi 15 sterline all'anno. Allora perché si dice che viviamo della carità pubblica? Perché la somma che paghiamo non basta alle spese per il nostro mantenimento e per la nostra educazione, e quello che manca viene fornito dai sottoscrittori. Chi sono i sottoscrittori? Persone caritatevoli dei dintorni e anche di Londra. Chi è Naomi Brocklehurst? La signora che ha costruito la parte nuova dell'istituto, come dice l'iscrizione, e ora chi decide e sovrintende ogni cosa qui è suo figlio. Perché? Perché è l'amministratore e il direttore della scuola. Allora la casa non appartiene a quella signora alta con l'orologio alla cintura che ha fatto distribuire la merenda di pane e formaggio? Alla signorina Temple? No, no, fosse così. Lei è soltanto una dipendente e deve rendere conto di tutto ciò che fa. Che compra il vito e i vestiti è il signor Brocklehurst. E abita qui? No, abita in una grande villa a 2 miglia da Lowood. È buono? È un pastore e si dice che faccia molte opere buone. E quella signora alta si chiama Temple? Sì. E quali sono i nomi delle altre maestre? Quella con la faccia rossa è la signorina Smith. Insegna il cucito e taglia perché i nostri vestiti, i grembiuli e tutto il resto ce li cuciamo noi. La piccola con i capelli neri è la signorina Scatcherd, che insegna storia, grammatica e fa ripetizione alla seconda classe. Quella con lo scialle che porta il fazzoletto legato alla cintura con un nastro giallo è la signora Pierrot, è francese, di Lille, e insegna la sua lingua. Ti sono simpatiche? Abbastanza. Vuoi bene a quella piccolina? E alla signora non sono capace di pronunciarne il nome? La signorina Scatcherd? È irascibile, bisogna fare attenzione a non irritarla. La signora Pierrot invece è abbastanza buona. Ma la signorina Temple è la migliore, non è vero? La signorina Temple è molto buona e molto intelligente. È superiore a tutte perché è assai più istruita delle altre. È da molto che sei qui? Da 2 anni. Sei orfana? Di madre. Ti trovi bene a Lowood? Ah, tu fai troppe domande, per oggi basta. Adesso vorrei leggere un po'. Ma in quel momento suonò la campana della refezione. E rientrammo tutte in casa. L'odore che riempiva il refettorio non era molto più appetitoso di quello della colazione. Il pasto ci fu servito in 2 grandi recipienti di stagno dai quali saliva con il vapore un puzzo di grasso rancido. Quando venne il mio turno, scopersi che quell'intruglio era composto di patate insipide e di pezzetti di carne filacciosa mescolati e cucinati insieme. Ognuna di noi ricevette una porzione piuttosto abbondante e io mangiai quello che potei, chiedendomi se i nostri pasti sarebbero stati sempre così cattivi. Dopo la refezione, entrammo subito in aula e le lezioni continuarono sino alle 5. Il solo avvenimento notevole del pomeriggio fu il castigo della ragazza con la quale mi ero intrattenuta sotto il porticato, che la signorina Scatcherd aveva sospeso dalla lezione di storia, ordinandole di mettersi sola in piedi al centro dell'aula. Quella punizione mi parve estremamente umiliante, specie per una ragazza di 13 o 14 anni come lei dimostrava di avere. Mi aspettavo che si vergognasse o che si mostrasse addolorata, ma con mia sorpresa non pianse né arrossì, rimase là esposta agli sguardi di tutti senza scomporsi. Ma come fa? Mi domandavo. Come può mantenersi così calma? Fossi io al suo posto, desidererei che la terra mi inghiottisse. E lei invece sembra che pensi a tutt'altro fuorché al suo castigo e alla sua triste situazione. A qualche cosa che la porta lontano di qui? Ho sentito parlare di persone che sognano ad occhi aperti. Sogna così, forse? Tiene gli occhi fissi al suolo, ma sono sicura che non lo vede. Sembra che guardi dentro se stessa molto in fondo, sino al cuore. Forse contempla i suoi ricordi, non la realtà presente. Chissà com'è quella ragazza, sarà buona o cattiva? Alle 5, finite le lezioni, ci portarono la cena, che consisteva in una tazza di caffè in una fetta di pane nero. Divorai il pane e bevetti con delizia il caffè, ma ne avrei voluto altrettanto perché avevo ancora fame. Seguì una mezz'ora di ricreazione, poi di nuovo lo studio e infine il bicchiere d'acqua e la fetta di torta d'avena, le preghiere e tutti andammo a letto. Così passai il mio primo giorno a Lowood. Capitolo 6. Il giorno seguente cominciò allo stesso modo del primo. Ci alzammo e ci vestimmo a lume di candela, ma quella mattina fummo dispensate dal lavarci perché l'acqua nei catini era gelata. La sera avanti il tempo era cambiato e una rigida tramontana, soffiando tutta la notte attraverso le fessure delle finestre, ci aveva fatto rabbrividire nei nostri letti e aveva mutato in ghiaccio l'acqua dei catini. Prima che l'ora e mezzo destinata alle preghiere e all'interminabile lettura della Bibbia fosse trascorsa, io ero già tutta intirizzita. Venne infine il momento della colazione e quel mattino la minestra non era bruciata. Le porzioni erano mangiabili ma scarse e, come mi sembrò piccola la mia, ne avrei voluto il doppio. Durante il giorno fui iscritta alla quarta classe e mi vennero assegnati compiti e occupazioni regolari. Fino a quel momento ero stata solamente una spettatrice a Lowood, ora divenivo attrice. Da principio, non essendo abituata a imparare a memoria, le lezioni mi sembrarono lunghe e difficili. Il continuo passaggio da una materia a un'altra mi confondeva, così fui ben felice quando verso le 3 del pomeriggio la signorina Smith mi mise in mano una striscia di mussola lunga 2 metri, aghi di tale, eccetera, e mandandomi a sedere in disparte mi incaricò di urlarla. Era l'ora in cui quasi tutte si dedicavano al cucito. Soltanto una classe era ancora riunita intorno alla signorina Scatcherd, leggendo ad alta voce. Poiché nell'aula nessun altro parlava, potei seguire la lettura, le risposte delle allieve e i biasimi o le lodi dell'insegnante. Studiavano la storia inglese e tra le lettrici riconobbi la ragazza con la quale avevo parlato sotto il porticato. All'inizio della lezione si trovava in prima fila, ma non so se per un errore di pronuncia o per non essersi interrotta quando doveva, era finita dietro a tutte. Ma anche laggiù la signorina Scatcherd non la perdeva d'occhio e la perseguitava con continue osservazioni. Burns, le diceva, e così ne apprese il nome, seppi che, come era consuetudine a Lowood, come di solito si fa nei collegi maschili, chiamare le ragazze per il nome di famiglia o per quello di battesimo. Burns, tieni storto un piede, raddrizzalo immediatamente. Burns, smetti di sporgere il mento a quel modo. Burns, ti ho detto di tenere dritta la testa. Non voglio vederti in quell'atteggiamento davanti a me. E così via. Quando il capitolo fu letto 2 volte, i libri vennero chiusi e cominciarono le interrogazioni. La lezione comprendeva una parte del regno di Carlo I e la signorina Scatcherd cominciò a far domande sul tonnellaggio, sulle imposte, i dazi dei trasporti marittimi, domande alle quali buona parte delle alunne non sapeva rispondere. Ma tutte quelle piccole difficoltà venivano subito risolte non appena l'interrogata era la Burns. Sembrava che la sua mente avesse ritenuto tutta la lezione ed ora era pronta a rispondere ad ogni domanda. Mi aspettavo che la signorina Scatcherd le rivolgesse una lode per tanta attenzione. Invece a un tratto la sentii gridare: «Perché non ti sei pulita le unghie stamattina? Sei proprio una ragazza insopportabile!» La ragazza non rispose e io mi meravigliai del suo silenzio. «Perché?» pensavo, «non le spiega che questa mattina l'acqua era gelata e nessuno ha potuto lavarsi?» In quel momento la mia attenzione fu distratta dalla signorina Smith che mi chiedeva di reggerle una matassa di filo. Mentre la dipanava, di quando in quando mi rivolgeva la parola, chiedendomi se fossi mai stata a scuola prima, se sapessi cifrare, cucire, far la calza e così via. Di modo che soltanto quando mi lasciò libera potei rimettermi a osservare la signorina Scatcherd. Mentre ritornavo al mio posto, costei stava appunto dando un ordine del quale non capii il significato, ma vidi la Burns uscire immediatamente di classe, entrare in uno stanzino dove si riponevano i libri e ritornare. in capo a mezzo minuto, con un fascio di verghe legate insieme. Quell'umiliante strumento fu offerto alla signorina Scatcherd con un rispettoso inchino, poi la Burns, senza nemmeno averne avuto l'ordine, si slacciò tranquillamente il grembiule e subito la maestra le assestò sulle spalle 12 energiche vergate. Non una lacrima in umidi gli occhi della ragazza, e mentre io smettevo di cucire, perché le dita mi tremavano alla vista di quello spettacolo ed ero agitata da una collera impotente, non una fattezza del suo viso pensoso si alterò. «Testarda!» esclamò la signorina Scatcherd. «Non c'è nulla che possa correggerti dalla tua trascuratezza! Porta via le verghe!» La ragazza ubbidì. Le gettai un'occhiata quando uscì dallo stanzino e vidi che si rimetteva in tasca il fazzoletto. La traccia di una lacrima luccicava ancora sulle sue gote smunte. La ricreazione della sera mi parve l'ora più piacevole della giornata. Il caffè e il pane distribuiti alle 5 rianimavano la vitalità, anche se non calmavano la fame. La lunga disciplina e il ritegno di tutta una giornata si allentavano. L'aula era più calda che al mattino perché per supplire alle candele non ancora accese si alimentava meglio il fuoco dei caminetti. Quell'allegro riverbero rossastro, l'animazione permessa, il vocio, tutto insomma risvegliava in noi una benefica sensazione di libertà. La sera di quel giorno in cui avevo visto la signorina Scatcherd fustigare una sua allieva, passeggiavo come al solito tra i tavoli e i gruppi allegri delle educande, senza una compagna. Ma non mi sentivo isolata. Quando passavo accanto alle finestre, ogni tanto scostavo una tenda e davo un'occhiata fuori. Nevicava fitto e i davanzali erano già tutti bianchi. Avvicinando l'orecchio ai vetri, riuscivo a percepire, pur tra il chiasso e il vocio che regnavano nell'aula, il lamento delle raffiche che all'esterno facevano turbinare la neve. Probabilmente, se pochi giorni prima avessi lasciato una casa diletta abitata da genitori buoni e affettuosi, quella sarebbe stata l'ora in cui avrei sentito più acuto il dolore della separazione. Il vento mi avrebbe colmato il cuore di malinconia. La violenza degli elementi avrebbe turbato la mia pace. Così come stavano le cose, invece, tutto ciò non suscitava in me che una strana eccitazione, e spavalda e febbricitante desideravo soltanto che il vento trascorresse più violento, che il cielo plumbeo si facesse ancora più fosco, che il clamore della bufera sopraffacesse ogni altra voce. Saltando sopra le panche, strisciando sotto i tavoli, raggiunsi uno dei caminetti, e là, inginocchiata davanti al parafuoco, trovai la Burns assorta, silenziosa, lontana da tutto ciò che la circondava, grazie alla compagnia di un libro che la leggeva alla luce incerta delle braci. «È sempre rasselà?» le domandai avvicinandomi. «Sì», mi rispose, «l'ho quasi finito». E infatti, dopo 5 minuti, chiuse il libro e io ne fui contenta. Adesso pensavo potrò forse farla parlare e mi sedetti in terra accanto a lei. Qual è il tuo nome di battesimo? Helen. Vieni di lontano? Vengo da un paese del nord, ai confini della Scozia. Ci tornerai? Lo spero, ma nessuno può essere certo del futuro. Chissà come desideri andartene da Lowood. No, perché dovrei desiderarlo? Sono stata mandata qui per studiare, sarei una sciocca ad andarmene prima di aver completato la mia istruzione. Ma quella maestra, la signorina Scatcherd, è così cattiva con te. Cattiva? Non è cattiva, è severa e detesta i miei difetti. Io, se fossi al tuo posto, detesterei lei, le resisterei e se mi frustasse con le verghe gliele strapperei di mano e le farei a pezzi sotto il suo naso. È probabile che non faresti niente di simile, ma se così non fosse, il signor Brocklehurst ti espellerebbe dalla scuola e cagioneresti un grande dolore ai tuoi parenti. È molto meglio sopportare con pazienza un dolore del quale siamo i soli a soffrire, che commettere un atto inconsiderato, le cui spiacevoli conseguenze ricadrebbero su tutta la nostra famiglia. E inoltre la Bibbia ci ordina di rendere bene per male. Ma è duro essere frustata ed essere messa alla berlina in mezzo a un'aula affollata, specie quando si ha la tua età. Io sono molto più giovane di te, ma non lo sopporterei. Eppure sarebbe tuo dovere rassegnarti, se non potessi evitarlo. È stolto e vile dire non posso quando si sa che è il nostro destino. L'ascoltavo, stupita. Non potevo capire quella dottrina di rassegnazione e ancora meno apprezzare l'indulgenza che la dimostrava verso chi la puniva. Intuivo tuttavia che Helen Burns considerava ogni cosa alla luce di una fiamma invisibile ai miei occhi. Dubitai che la potesse avere ragione ed io torto, ma non ero disposta ad approfondire quella faccenda. Al pari di felice, la rimandai a un momento più propizio. Dici di avere dei difetti, Helen? Quali sono? A me sembra che tu sia tanto buona. Impara da me, allora, a non giudicare dalle apparenze. Io sono disordinata e negligente, come dice la signorina Scatcherd. Raramente metto le cose in ordine e non ve le tengo mai. Sono sbadata, dimentico i regolamenti, leggo quando invece dovrei studiare la lezione, non ho metodo e qualche volta dico anch'io come te che non posso assoggettarmi a vivere secondo regole fisse e sistematiche. Tutto questo irrita molto la signorina Scatcherd, che è per natura linda, puntuale, meticolosa ed esatta. «È intrattabile! È cattiva!» aggiunsi io. Ma Ellen Burns non volle ammetterlo e tacque. «La signorina Temple è anche lei severa con te come la Scatcherd?» Nel sentir pronunziare quel nome un dolce sorriso apparve sul viso grave della mia compagna. «La signorina Temple è piena di bontà», disse. «Dover essere severa la addolora, anche con le peggiori tra noi. Certo, ella vede i miei difetti, ma mi riprende dolcemente». E se qualche volta mi merito una lode, è la più pronta a riconoscerlo. Una prova indiscutibile della mia biasimevole natura la vedo nel fatto che persino i suoi rimproveri, sempre così dolci e ragionevoli, non riescono a correggermi dei miei errori, e le sue stesse lodi, che pure hanno tanto valore ai miei occhi, non hanno il potere di stimolarmi a diventare ordinata e perseverante. È strano, osservai, mi sembra tanto facile essere attenta ed accurata. Per te non ne dubito, ti ho osservata questa mattina in classe durante le lezioni e ho visto come stavi attenta. Non ti sei mai distratta mentre la signorina Miller spiegava la lezione e ti interrogava. I miei pensieri invece vagano sempre altrove, quando dovrei ascoltare la signorina Scatcherd e cercare di ritenere ciò che dice. Spesso non odo nemmeno il suono della sua voce e sogno ad occhi aperti. Talvolta penso di essere nel Northumberland e i rumori che odo intorno a me li scambio per il mormorio di un ruscello che scorre a Dibden, non lontano da casa mia. Poi, quando tocca a me rispondere, devo risvegliarmi da quel sogno, e poiché ascoltando il ruscello immaginario non ho udito una parola di quello che si è letto, rimango là senza saper che dire. Eppure hai risposto benissimo questo pomeriggio. Oh, è stato un caso. L'argomento della lettura mi piaceva, invece di sognare Dibden, ero meravigliata che un uomo che amava il bene potesse commettere tante ingiustizie e tanti errori come spesso ha fatto Carlo I. Pensavo che è triste, con quella integrità e quella coscienza, non vedere nulla al di là dell'autorità della corona. Fosse stato capace di guardare lontano, di capire dove tendeva ciò che si chiama lo spirito del secolo, eppure provo simpatia per Carlo I e lo rispetto, povero re assassinato. I suoi nemici sono stati più colpevoli di lui, hanno sparso un sangue che non avevano diritto di spargere, come hanno osato ucciderlo? Helen parlava a se stessa ora. Aveva dimenticato che io non ero in grado di capirla bene e che l'argomento del quale parlava io lo ignoravo o quasi. Allora la richiamai al mio livello. Ti distrai anche quando la lezio fa lezione la signorina Temple? No, certo, o almeno non tanto spesso, perché la signorina Temple ha sempre da dire qualche cosa che mi riesce più nuovo delle mie riflessioni, e il suo linguaggio mi piace, e spesso ella mi insegna proprio quello che desidero imparare. Allora con la signorina Temple sei buona. Sì, ma in un modo passivo, non faccio sforzi, vado dove l'inclinazione mi conduce, non c'è alcun merito in questa forma di bontà. Ce n'è molto, invece, perché tu sei buona con coloro che sono buoni con te. È stato sempre quello che ho desiderato. Se si fosse sempre gentili e obbedienti verso coloro che sono crudeli e ingiusti, i malvagi proseguirebbero troppo facilmente per la loro via, non avrebbero mai paura e non ravvedendosi mai diventerebbero sempre peggiori. Quando siamo colpiti senza ragione, dovremmo colpire a nostra volta e duramente anche, per insegnare a chi ci colpisce a non farlo mai più. Oh, spero che cambierai idea quando sarai più grande, per ora non sei che una bambina inesperta. Ma io sento così, Helen, non posso amare coloro che per quanti sforzi io faccia per riuscire gradita, continuano a odiarmi. Devo ribellarmi a chi mi punisce ingiustamente, ciò è naturale per me, come voler bene a chi mi dimostra affetto o accettare una punizione quando so che è meritata. I pagani selvaggi proclamano questa dottrina, ma i cristiani e i popoli civili la rinnegano. Come? Non capisco. Non è con la violenza che si vince l'odio, e la vendetta non è il mezzo migliore per sanare un'ingiuria. E allora? Ah, leggi il Nuovo Testamento e medita sulle parole di Cristo e sulle sue azioni. Quello che dice ti serva di regola e prendi esempio dalla sua condotta. Che cosa dice? Ama i tuoi nemici, dice, benedici coloro che ti maledicono, fai del bene a coloro che ti odiano e che ti trattano con disprezzo. Allora dovrei amare la signora Reed, e non posso. Dovrei benedire suo figlio John, ed è impossibile. A sua volta Ellen Burns mi chiese di spiegarmi e non mi parve vero di poter raccontare, così come mi veniva alle labbra, la storia delle mie sofferenze e dei miei risentimenti. Amara ed eccitata parlavo come mi dettava il mio spirito esacerbato, senza riserve né indulgenza. Ellen mi ascoltò pazientemente e quando ebbi finito aspettai che ella mi facesse qualche osservazione, invece tacque. Dunque, le chiesi spazientita, non ti pare che la signora Reed sia una donna dura e senza cuore? Non è stata buona con te, questo è certo. Vedi, non le piaceva il tuo carattere, esattamente come il mio non piace alla signorina Scatcherd. Ma come ricordi bene tutte le sue parole e le sue azioni, che profonda impressione devono averti fatto le sue ingiustizie. Nessun maltrattamento ha mai potuto ferirmi a tal punto. Non credi che saresti più felice se dimenticassi la sua severità e le violente emozioni che ha suscitato in te? La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tenere conto dei torti altrui. Tutti noi siamo carichi di colpe in questo mondo, ma giungerà presto il giorno, spero, in cui le deporremo tutte insieme alla nostra spoglia corruttibile. Allora l'avvilimento e il peccato ci lasceranno insieme con questo incomodo involucro di carne e ci rimarrà soltanto la scintilla dello spirito, il principio impalpabile della luce e del pensiero puro come quando uscì dalle mani del Creatore per animare la sua creatura. Questo principio ritornerà là da dove è venuto, forse per essere comunicato a qualche essere superiore all'uomo, forse per passare attraverso vari stadi di gloria, dal pallido animo umano allo splendore dei serafini. Ed è certo che questo spirito non potrà mai degenerare, abbandonare l'uomo per allearsi al suo nemico. Lo spirito del male. No, non posso crederlo. La mia fede è un'altra, una fede che nessuno mi ha insegnato e della quale parlo raramente, ma forma la mia felicità ed io mi stringo ad essa perché concede a tutti la speranza e dell'eternità non fa un abisso e un luogo di terrore, bensì un riposo, una splendente dimora. Inoltre, grazie a questa fede, faccio una netta distinzione tra il peccatore e il suo peccato. Posso sinceramente perdonare al primo, mentre abborro il secondo. Con questa fede la vendetta non mi opprime il cuore, la degradazione non mi disgusta mai troppo profondamente, l'ingiustizia non mi toglie il coraggio. Vivo calma, aspettando la fine. Il capo di Ellen, sempre un po' reclino, si chinò maggiormente pronunciando questa frase. Lessi nel suo sguardo il desiderio di troncare il discorso per abbandonarsi ai suoi pensieri, ma non le fu lasciato molto tempo per meditare. Una capoclasse, una ragazza dall'aspetto rozzo, le si avvicinò e con un accento che la rivelava oriunda dei Cumberlands le disse bruscamente: Helen Burns, se non vai subito a mettere in ordine il tuo cassetto e a piegare il tuo lavoro, chiamo la signorina Scatcherd. Tolta alle sue fantasticherie, Helen sospirò e alzandosi, senza rispondere, si affrettò ad ubbidire.